Componimento 95esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Così potess'io ben chiudere in versi i miei pensier, come nel cor li chiudo, ch'animo al mondo non fu mai sì crudo chi non facessi per pietà dolersi. Ma voi, occhi beati, ond'io soffersi quel colpo ove non valse elmo né scudo, di fore dentro mi vedete ignudo, benché in lamenti il duol non si riversi. Poi che vostro vedere in me risplende come raggio di sol tra luce in vetro, basti dunque il desio senza ch'io dica: lasso non a Maria, non nocque a Pietro, la fede ch'a me sol tanto è nemica, e so ch'altri che voi nessun m'intende. Fine del componimento.